10. Ci Q10, c'è qualcuno? E anche prova prova. Prova prova. Quando passo il segnale va. E va bene, già si capisce. 12. C'è qualcuno sul canale 10 in ascolto? Sì, avanti. Ciao Giulio, buonasera. Come va? Oh, ciao. Bene, bene, tu? Tutto bene allora? Sì, tutto bene. Scusa un attimo che do una controllatina, visto che ho messo il drone, ho messo un po' calze, do una controllatina alla stazionaria. Voglio fare un attimino solamente, il tempo di calibrare. Scusa, ci picchia. Ecco qua. Va bene, 1 e 2, va bene, Gianfra, vai. Sì, ma dalla voce mi sembra che stai molto meglio rispetto a qualche giorno fa, ci siamo sentiti. Sì, diciamo di sì, dai. Sai cos'è, che quando faccio la terapia mi butta giù per un paio di giorni, per cui allora devo riprendermi. Poi tra l'altro il problema è che ogni tanto mi si abbassa la voce, ma questo da anni, forse bevo poco, non lo so, forse quando sono disidratato, che ne so, ci sono dei momenti che ho la voce un po' bassa. Sì, quello lo fa anche a me, comunque non dovrebbe essere niente di preoccupante, soprattutto quando parlo molto e quando c'è freddo mi prende anche la gola, quindi quello può capitare, ecco. Sì, penso che succeda un po' a tutti, è vero. E va bene, comunque siamo qua, oggi, dopodomani devo riprendere l'altra fase della terapia, perciò dopodiché ci saranno altri 1 o 2 giorni, diciamo, di calo, vabbè, comunque è una cosa che devo fare sino almeno per un annetto ancora, dopodiché speriamo bene, non so cosa dire, Gianfra. Sono nelle mani di Dio, come tutti noi del resto. Ah, su quello non c'è dubbio, siamo tutti nelle sue mani, nel bene e nel male. Nel caso non mi senti, Giulio, è perché sto anche operando di là in 2 metri, perché stiamo provando il ponte che si era guastato, quindi nel caso mi chiami no, non ti rispondo, vuol dire che sto parlando là. Buonasera, ok Gianfra, non c'è problema, figurati, è chiaro, se devi fare attività anche dall'altra parte, che problemi ci sono, vai pure, tranquillo, senza nessun problema. Sì, no, io sino a un momento fa stavo parlando sul canale 12, anzi per la verità abbiamo iniziato sul 10 e poi mi hanno detto passa sul 12 con un amico di Porto Torres, un certo Mario, che è anche lui un vecchissimo CB dal 1974, però io non lo ricordo, anche perché lui era fuori, era sempre in continente e dopo 40 anni dice che è rientrato in Sardegna e adesso evidentemente sta installato la radio qui a casa a Porto Torres. Avanti, buonasera. Yeah, buonasera a tutti. Oh Gianni, avanti, basta di mettere la radio già, che è troppo forte. Sono Giuseppe, siamo dalla Cinara, mi decidi? Avanti Giuseppe, buonasera. Sto provando questo baraccino a vedere quali tutti che sono qua nella Cinara. Ma sei in imbarcazione oppure sei fermo? No, sono su un'imbarcazione. Va bene, dai, ti ascoltiamo, avanti Giulio, l'ascolto. Sì, io l'ascolto, ciao Giuseppe, io ti ascolto bene, non c'è problema, Santiago 7, la radio è chiara, diciamo che è chiara, non è fortissima ma va benissimo, ti mando avanti un altro amico, sicuramente ti ascolta anche lui, avanti Gianfra per Giuseppe. Sì, ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato, ciao anche a Gianni, che però sentivo un po' male stranamente. Riprendi Gianni. Sì, forse era troppo forte la radio, dai. L'ho abbassata adesso, va bene. A voglia. Capo. ti stai dirigendo? Stai pescando o ti stai dirigendo verso qualche posto? No, no, adesso siamo là in fondo qua e stiamo vedendo un po' se mettiamo questo calamare, dai. Stiamo provando, vediamo un po'. E adesso cominciano, dai. Cioè cominciano i calamari. E vabbè, dai. Speriamo bene. Abbiamo colto su 10, dai, almeno mi fate compagnia. Ma non c'è problema. Metti luci così li attiri. Alla grande. Kappa kappa. Avanti Giulio. Ok, sì, ti ascoltiamo bene Giuseppe, non c'è problema con Giuseppe. Noi siamo a Sassari per cui non c'è problema, ti sento bene, io, Gianni e anche l'altro amico, dice un pochino più basso, però ti sente molto bene anche lui. Va bene, va bene. Stavo dicendo già, la mia parte già va bene perché poc'anzi ho regolato il volume, dimmi se strappa, così devo rimediare, se no sto subito mettendo a posto. No, no, è perfetta, perfetta, va benissimo. Ah, ok, va bene. Riprendi Gianfra. Sì, no, un attimino Giulio, riprendi tu che forse mi stanno chiamando là. Ok, ok, d'accordo Gianfra, non c'è problema, vai pure dall'altra parte, così fai doppia attività nel contempo. Bene, bene. Sì, Giuseppe, e allora stavi dicendo che stai lavorando Giuseppe, o stai passeggiando per così dire, per mare? No, no, no, lavorando, altro che. Ah, ok, va bene. Purtroppo bisogna fare anche quello, nella vita bisogna fare soprattutto quello. Avanti Gianni. Giuseppe, come mai hai piazzato il baracchino invece che mettere VHF in barca? No, diciamo che ha piazzato in questa barca qua, il baracchino c'era già, per cui ma ho deciso di lasciarlo, comunque c'è anche il VHF portato. Ah, cappa, vabbè, dai. Comunque qua, bene o male, la gente già c'è adesso. Un po' d'estate manca perché va in giro e cose, quindi non c'è nessuno. Infatti io ho provato diverse volte a cedere e non c'era nessuno. Adesso si comincia con le brutte giornate a rannicchiarsi in casa e a cedere l'apparecchio, capito? Sì, esatto, ma io insomma... Ma dove sei di Porto Torres? Sì, magari a me mi conosci pure. Ho lavorato tanti anni io al Tourist Market ai Granai. Andava bene. E beh, sei già uscito a prendere i calamari, li avete presi? E adesso come viene un po' di freddo, devi tapparti bene, ecco va per cominciare un freddo. Anche lo si, il freddo si può recuperare, si mette qualcosa sopra e via. Avanti. Certo, a mare c'è freddo, indubbiamente. Io mi rendo conto nelle condizioni in cui lavorano quelle persone che vanno lì a mare d'inverno, finché siamo d'estate va bene, già ci può stare, ma d'inverno c'è da coprirsi veramente, perché se no come si fa? Non è possibile. Con l'umidità del mare, eccetera, e con la tramontana, eccetera, figurati, non è certo un'allegria, no, ma lavoro, questo bisogna farlo. Avanti Giuseppe. A proposito dei calamari, li ho mangiati proprio oggi, me li ha fatti anche oggi mia moglie, presa un po'. Sono buoni, a me piacciono tantissimo e non c'è problema. È uno dei piatti migliori, secondo me, i calamari, a me piacciono moltissimo. Avanti Gianni. Ehi, io sono andato a calamari Giulio e lo so com'è. Ti metti anche la tuta imbottita, ma non c'è verso, a faccia ti prende sempre il freddo, ma giusto. Per un freddo, sì, riprendi perché anche 4, 5, vabbè, lui vabbè va all'altro. Ma io andavo lì dove c'è la chiesetta di Marai e lì li prendevo 4, 5, 7, dipende. Però prendevi anche un po' di freddo, ma giubilato la sinusite lì. Purtroppo è così, Gianni, quando quando si va a pescare così a mare, lo sappiamo, lì non è che ci sono le case che se ne parlo dal vento o dal freddo, eccetera, eccetera, oppure il calore della città. Lì è campo libero e comanda la temperatura, per cui non c'è niente da meravigliarsi. Purtroppo è così, è d'altronde. Va bene Giuseppe, ma rientrate tardi oppure cosa fate? La notte lì in mare per il lavoro? Ho detto, se rientrate tardi a terra, oppure vi tratterete anche la notte per il lavoro, non so che tipo di imbarcazione avrete lì. Capito, e va bene così è. Ma cosa faccio? Già ti abbasso la radio troppo forte, cos'è? Cosa faccio? Perché vedendo il coso, ma che nella posizione che è, mi sembra che sia troppo alta la radio, com'è? No, io la sento bene, giuro, se è troppo alta stramba, va bene, è forte ma non è alta, non è altissima. Giuseppe, adesso vedo mi ascolti. Ma sentito già, ti ha risposto, ha detto che ti sente meglio. Sì, ha detto sempre in ascolto, già l'ho sentito, sì. Esatto, facciamo una prova. E vabbè Giuseppe, io andavo lì a guardare vicino perché c'è quel faro che illumina la chiesa, che manda la luce in mare, quindi siamo attirati dalla luce, capito? Lo so, adesso non fa infatti. E dicembre anche, a dicembre. Anche se ti ho preso belle, le seppie di russo. Giulia va. Ok già, beh certo. Aspetta un attimo già che stavo controllando le stazionarie. 1 e 2. Vabbè dai così. 1 e 1 così già. Se aumento qualche watt diventano 1 e 2 e diventano. Comunque vanno sempre bene. Purtroppo l'antenna vuole messa. Questo tipo di antenna vuole messa 5 metri più in alto del tetto, questa è a 2 metri e 2 metri e mezzo, però così è così, ve lascio, cosa sto lì a mettermi a lavorarci, non è il caso già. Gianni al telefono, Giuseppe, sicuramente Gianni al telefono. Sì, avanti Gianni, mettiti frequenza, non sei su 10. Gianni, 1, 2, 3, Gianni, 1, 2, 3, Gianni. Sei sparito Gianni, come mai? Gianni, Giuseppe, mi senti sempre? Prova, io sto uscendo. Gianni, cosa è successo? Ciucucciù, ciucucciù. Ciucucciù a te, ma io sto uscendo, sì o no? È a ora che stai uscendo. Appunto, mi era venuto il dubbio perché non sentivo più a Gianni, stavamo parlando io e Gianni e anche un amico di Porto Torres, è sparito Gianni, non lo sento più, siccome io ho abbassato un pochino e stavo controllando le stazionarie, e allora ho pensato ma che abbia fatto qualcosa che non sto uscendo, invece sto uscendo, anche dallo smitter me ne accorgo. Vai Antonetto. No, io ti sento evidentemente, non ho chiamato il telefono, qualcosa del genere. Sentato è così. Ok, va bene allora. Sono contento. 1 e 1 di stazionari, giusti, 1 e 1. Siamo a 7 watt, 8 watt massimo, non di più. Una cosa del genere. Ciao, va bene, dai. Va bene Antonio. E a voglia. Mi ha chiamato una mezz'oretta fa cosa, quindi un certo è moro. Stava rientrando a Buduso, mi ha detto, dice, quando rientri mi ha detto chiamami a baracchino. e dove è tappata sul 10, dove di solito sono tutti sul 10. Oppure io ho detto, boh, ma se fa un giro del canale, se trovi, c'è uno che muta la Orsieri e l'altro che muta la Muros, gli ho detto. Perché lui era un furgone rosso. Beh, ho capito, no, io Budisolo lo collego in banda laterale, in AM non mi ricordo di averlo mai collegato, ma in banda laterale sì, in banda laterale più di una volta, però in AM no, io, perlomeno con la potenza che uso io, e poi se aumento la potenza questo non te lo so dire, ma in quel caso lì dovrei anche aumentare la ricezione, e in che modo? Quello dipende da lui. Beh, ma lui è il furgone, senz'altro c'è una onda adesso. Penso che abbia passato Ozieri, se no questa cosa l'avrei sentito. Perché Ozieri lo sento, Santiago 3 lo sento Ozieri. Evidentemente sarà a metà strada, senz'altro, magari che vada a casa sua. Io l'unico modo è mandato a trovare anch'io, la verità. L'unico da Claudio, che l'accompagnavo in AM, tranquillo, da qua a casa sua, tranquillamente a Budusò, in AM. L'unico ero io, primo, forse 80. Il bando laterale era perfetto, ho solo le FM, mi. L'unica cosa era quella. Ok, ho capito la cosa. Bene, bene, no, perché mi sono messo a controllare boccate delle stazionarie, perché mi sono fatto uno spettone nuovo, mi sono fatto, no? E avevo un pezzo di H155, ho fatto beh, invece adesso mi faccio uno spettone nuovo così, invece considerato che l'ho fatto da 90 cm, perché 45 era troppo corto, allora l'ho voluto fare da 90 cm, che mi va meglio, dai. Per cui ho visto che funziona molto molto bene, anche per usare il saldatore nuovo che avevo ordinato per il Natale scorso, che avevo ordinato il saldatore nuovo, proprio quello professionale di lusso, molto bello, quello con coso, che parte da 80 watt fino a 130 watt e parte da 90 gradi di calore fino a 450, una cosa del genere. Cosa devi saldare? La cassa alla volta devi saldare. Cassa 450 watt saldi la cassa alla volta con quello stagno. No, non ho capito, Antonio, perché hai un bel rumore sotto di QRM, non so da cosa dipende, forse dall'alimentatore, non lo so, che sta fischiando, c'è un fracasso, insomma, ecco. La ventola, l'alimentatore, ho detto 450 watt, ho detto, puoi saldare la cassa alla volta, ho detto. Beh sì, con 450, no, è 130 watt, calore 450 calorie, capito? Temperatura 450, da 90 a 450, quando al minimo è 90 gradi, quando aumenti al massimo è 450 e qualcosa anche, 458, una cosa del genere. Però come vantaggio, se abbassa la temperatura assorbe 80 watt, se invece aumento a massima temperatura assorbe 130 watt. Adesso mi sono spiegato meglio. Ma è sempre troppo alto però, come saldatore. Uno da 10, da 20, massimo 25 watt va bene per i componenti elettronici. È troppo alto quello che c'è, ti rimane lo stampato in mano, capito? È troppo alto, io uso quello da 10, massimo 25 watt, regolabile. Quelli che del Lido, per esattezza, lo metto al minimo e mi risalda i componenti tranquillo, se no mi rimane lo stampato in mano, ce la faccio. Invece, vabbè, se trovi di quei baracchini modello vecchio, dopo il stampato si butti davvero. No, dove c'è il capello? Se io lo metto basso, il calore, la temperatura, la faccio io. Poi sciogliere lo stagno, intanto ci vogliono fra le 250 e 300, 300 gradi, perché se no non ti scioglie bene lo stagno, è tanto, no? Per cui questa è la temperatura, me la regolo io, abbassandolo o aumentandolo. Ho detto che ha quelle funzioni, lo strumento ha quelle funzioni, partendo da una bassa temperatura di 90 60 gradi, che è pochissimo praticamente, sino a 450 gradi, non so se mi sono spiegato. Dunque, a secondo del lavoro che devo fare, la temperatura naturalmente la regolo io. Se devo andare su un circuito stampato, è chiaro, non è che devo mettere temperature alte, ma poi non lo so, Antonio. Ehi, assegnato so anche io, se fece qualcosa parlando sotto. Appunto, e non era nemmeno molto costoso, ho pagato 50 euro praticamente, dai. E mi hanno mandato anche una matassina di stagno, mi hanno mandato. È bello, veramente. Posso dire, assicurare che è bello. Scalda in pochi secondi, è già pronto a saldare, senza stare 2 ore aspettando che si riscaldi. In brevissimo tempo tu lo metti e ti riscalda in un attimo, ed è pronto a lavorare, nel giro di 2 minuti è già pronto a lavorare. Sì, già ho capito. Già va bene. No, io ne ho due di quelli. Uno l'ho trovato, la verità, in garage, davanti al garage di fronte al garage che ho io, in scatolato, poi sono superato a casa, l'altro invece avevo comprato a Lido, sono tutti due uguali, ne ho due in pratica, poi c'è un salatore quello normale che vende Fusaro, e poi c'avevo uno di quelli cinesi, ragazzi, quello mi è rimasto in mano, come l'ho acceso, dopo 30 secondi, acceso, ah! Meno male che c'era la placca, se no mi sarei preso la scossa. Ok Antonio, aspetta che chiama Gianni, vediamo un po' se rientra, che non capisco cosa gli è successo, che non ha ripreso. Gianni, giù sì? Io ci sono, Giulio, scusate, dai, stavo facendo un cambio da pari. Andiamo. Beh, andiamo, proprio bene, mia. Allora, chiamato la pari, andiamo, proprio bene. Perché cosa ti era successo nell'altro? Mi sembrava che ti era successo qualcosa, perché di punto in bianco ho sentito una piccola frase e sei sparito. Ciao Luca. Ciao Giulio, ciao Pompucu e ciao Gianna Nannini, avanti Gianna. Ehi, buonasera a tutti, dai. Ciao Gianni, buonasera. Pompucu, già mi senti, sì? Ho voglia, 9:10. Cazzo, 9:10, andiamo. Cazzo, avanti Giulio. Capita, non è poco, 9:10. Oh, yeah. Pensa che a scuola quando ti davano 10 eri più contento di questo mondo, vero Luca? Sì, è vero. Oh, yeah. Siamo notti a un 7, era un po' così. Oh, yeah. La carità, vabbè, dai. Vabbè, per avere l'antenna nel terrazzo, dai, 9:10 è più che sufficiente. Vabbè, Gianni qua è a fondo scala, non so quanto arrivo da lui. Gianni, quanto arrivo da te? È uguale, dai. E sto usando Superstar perché ero da un po' che non lo usavo, capito? Ah, ho capito io. Però sta... Si sente la ventola? Sì, ma appena, proprio un piccolizzetto, dai. Ma è fastidioso, dai. Sono buoni questi alimentatori, perlomeno. Qui mi trovo bene. Solo che la ventola fanno un casotto nero. È lo stesso problema, ce l'ho io, Luca, ma non ci facevo caso. Sai perché? Perché quando stai parlando, la ventola non si sente nemmeno, per cui non è un problema. Cosa te ne frega, dai. Almeno ci mantiene svegli il rumore dell'alimentatore. Sì, ma se la sgancio rischio di bruciarlo. Penso proprio di sì, se l'hanno messa è perché evidentemente ci vuole, no? Io, sai cosa ho fatto io per attutire un po' il rumore della ventola? Non so se tu la senti la mia, in questo momento, guarda, io lascio un attimo la portante, sicuramente la sentirai, ma proprio appena. Ecco, adesso non so se l'hai sentita. Ho tolto il coperchio, l'ho messo da parte il coperchio ed è scoperchiato dall'alimentatore switching e la ventola si sente molto ma molto di meno, Luca. No, non l'ho sentito perché sentivo più la mia, riprova. Sì, ecco, guarda, 5 secondi. Vai Luca. No, non un po', ma quasi non è proprio... Se non ci fai caso, come se non ce l'abbia, la ventola, capito? No, a me si sente un bel cavolo, è che non c'ho un microfono amplificato, sono guai. Mi guarda, aspetta. È molto forte, cazzo, è molto forte. Ma qua quello è di quell'alimentatore cinese, quello da 20, 25 euro. No, io ho il switching, quello con gli strumenti, eccetera, non ho quello lì. Però ci avevo messo anche una resistenza per abbassare i giri della ventola. E dunque la ventola, anziché girare al massimo, gira un po' più lentamente. Luca, e per quello, anche quello diciamo che un pochino ha migliorato, però va bene lo stesso, come questione di raffreddamento va bene ugualmente, anche se la faccio girare di meno, va bene. E tu Gianni, avanti. Oh, io ce l'ho, però il mio non è così rumoroso, io ce l'ho. Giulio, scusa Gianni, Giulio, da quanto la resistenza? Ma mi sembra che l'avevo messa da 100-150 ohm, non mi ricordo. C'è il filo rosso, no, che è collegato alla ventola. Lo tagli e ci metti la resistenza, ci metti. Lo isoli bene, lo isoli e poi già te ne accorgi che gira di meno, gira. E va bene così. No, e per quello già c'ho quello, come si chiama? Termorestringente, come si chiama, quello lì. Lo metto tra il pulsante, io non ho il pulsante per staccare, no, sopra. Lo metto lì, da 150 ohm. Mi sa che me lo riporto a casa, me lo riprovo, là. Tanto già ne ho tante resistenze, la più, insomma, quella che fa meglio la lascio. Sì, dai, riprendi un po'. Io me la sento che devo andare un attimino in cucina, non per mangiare, a bere. Fai bene, a fottitini. Hai visto che vi piace Santa Caterina, se fosse la tua avessi bevuto gratis, Caterina era buona di roba lì. Mi ha detto Marino, dice che c'era un negozio alimentare, sembrava lì, tutto pieno di birra, lattine, bicchieri, in senso dovuti andare a lavorare. Sì, è vero, quello già è vero. Va bene, vai. Gianni, evidentemente, sai cos'è? Che io ce l'ho in questo tavolino, fa anche da coso, da effetto camera, perché ce l'ho nel piano sotto, ce l'ho, sicché anche quello influisce, perché se lo prendo, lo tolgo, lo metto per terra, l'alimentatore, perché proprio nell'ultimo piano, si sente quasi nulla, proprio quasi, quello vuol dire molto, cioè all'interno dello scaffaletto risuona o fa da effetto camera, come si chiama, o effetto cattedrale, o Gianni. Ecco. Ecco, questo è un amico di Russo. Avanti. Ciao, buonasera California da questa, ciao Gianni, ciao Giulio. E poi non so chi altro ci sia. Ciao Franco, è stato fuori, ben sentito. Ma quindi vi ascoltate anche voi lì a quelle zone. Ciao Franco. Ciao già, buonasera. E allora, ogni tanto ci si sente là. L'ho acceso giusto per spolverare, a ver se mi ascoltavate, ho questa antenna in gomma. Sì, ti ascoltiamo anche forte, perlomeno qua è così. Anche qua molto forte, ciao Franco. C'è Luca che si è sentato un attimo, è andato in cucina per un bicchiere d'acqua, di acqua color birra. Ciao Giulia, buonasera anche a te, ben ascoltato. Sta arrivando fortissimo in radio, una bella radio forte, bella, prepotente, per cui non c'è problema. Sarà grande, con l'antenna di gomma sempre con l'antenna di gomma però, fra. Beh, lo sai che io quando esco sempre, diciamo, ho questo tipo di antenna di gomma. In pigiama. Chi era? Avanti, chi era? Boh, non lo prende, vabbè, pazienza. Vai Antonello si è assentato un attimo. Vai Gianni. Io sto provando fra questo... come si chiama? Sto provando questo baracchino, ma Superstar. Ah, mi segna canale 9, non capisco il perché. Ma siamo sul 10. Appunto, ma mi segna 9, sul 10 non riesco a prendere, non capisco il perché, è stato un po' fermo, adesso sta rompendo le scarpe. E quali sono? Quali sono i danni? Sarà quello? Cosa? Forse il quale che è il numero regolato? No, è il canale, non è la frequenza. Però se tu giri la frequenza cambia anche il canale, no? È normale. Perché si sposta di 10, no? Non è così fa. Sì, è possibile già che hai toccato il clarifier del coso della dei megahertz, se si sposta di 10, se è sul 9, ma ti ascoltiamo su 10. Allora queste apparecchiature si sa, sono un pochino così, è ovvio che prima o poi possono fare anche quel difetto lì. Sono baracchini, non c'è niente da fare. Quando uno dice cosa è il baracchino, basta, abbiamo capito di cosa si tratta. Quello va. Eh sì, baracchino è sempre baracchino, venuto da, è così Giulio. Il rapporto di segnale quant'è da te Giulio? Sempre a 20, sempre a 20, ti lusso. Va bene, va bene. E adesso era la volta che non accendevo questa radio, ho voluto accendere giusto per farla scaldare un po', dai. Ok, anch'io vediamo, tanto ti guardo, accendo la luce del velocimetro, 7 watt, com'è da te il segnale? Vai. Qua sei 9:20 giù. Allora siamo lì vicini, siamo così, molto bene, molto molto bene. Meglio di così, cosa dobbiamo pretendere? E io stavo pensando di portare ancora più su l'antenna, perché questa antenna che ho io, come regola, perlomeno quello che dice la casa che l'ha costruita, deve essere montata 5 metri più in alto dalle tegole, e cioè quando è sul tetto, dalle tegole, invece io ce l'ho a 2 metri e mezzo, un massimo, non di più, forse di meno anche. Allora ti conviene sollevarla un po'. Ma ce l'ho nel terrazzo, poi va bene così, o fra, ce l'ho già da qualche anno così, per cui cosa devo fare? O cosa fare troppo lungo? E dà la sensazione che magari si possa anche spezzare. Invece quando è a quell'altezza sono tranquillo, dai. Anche perché mi metto sul davanzale, mi metto un attimo, davanzale alto 80-90 cm, sono da con la mano e abbasso il tubo tranquillamente sino a portarmi dall'altezza all'uomo, da terra, dal pavimento, non più dal davanzale ma dal pavimento. Perciò non c'è problema, allungo la mano e svito il piede. Va bene, ma già diciamo che ti ascolto benissimo, non c'è problema di ascoltarti. E poi se va bene così chi te la fa fare, risalire sopra il tetto e rismontare tutto e rimontare. Infatti no, perché prima te la dovrò la parte di dietro, perché dietro il tetto, o meglio la casa è 3,50 metri più alta della parte di davanti, no? Perché c'è tutta la pendenza del tetto, e prima ce l'avevo piazzata lì, ma quando avevo la mantobatumo piazzata, poi l'avevo tolta e allora mi ero costruito quella canna da pesca, e per provare avevo messo due tasselli di quelli a coso, come si chiama, a trappano nel poggiolo della massata, e il tubo da quel giorno, questo mi sale già 3 anni fa, lì avevo provato con l'antenna fatta da me, e poi l'avevo sostituita 7-8 mesi fa con questa originale, che poi avevo fatto uno scambio, tutto lì. Lì avevo iniziato e l'ho lasciata, visto che andava bene l'ho lasciata lì. Ma scusa, ma non c'avevi la Mantova 5? Perché non ti piace la Mantova 5 direttamente? Avevo la Mantova turbo, ce l'ho sempre, nuova, quasi me la vendo, tanto non me ne posso nulla, tutto sommato, però mi dispiacerebbe anche vendere, la verità, non sono abituato io a vendermi le cose, e devo dire che ce l'ho sempre, nuova, ma l'avevo tolta solo perché d'inverno, quando c'è vento forte, e durante la notte fischiavo nei radiali, ed è per quello che l'ho tolta, se no la Mantova, ma a me andava benissimo, non bene, ma benissimo. Queste, ma infatti sono delle antenne che vanno benissimo quelle lì. Solo se c'è quel problema lì, lascia quella che c'hai. Franco. Che avanti? Ma come mi senti adesso? Sono sul 10. Ti ascolto benissimo qua Gianni, senza problemi. Era uno scatto da fare, c'era uno scatto, perché c'ha più canali questo, capito? C'ha canali sotto, sopra. Vabbè dai, l'interessante è che abbia risolto. Qua sei 9:40, radio Super 5, buona, ultima. Ok dai, conferma Giulio come sta arrivando. Arriva benissimo qui da me, no? Non c'è problema. Ma te l'ho detto già, guarda che sicuramente avrebbe spostato il canale senza nemmeno rendersene conto, guarda. Dunque girando il canale, se mi trovo volte, sì, sono 10 trasmettendo e ricevendo, però c'era quel problema lì sicuramente, ne sono più che certo, perché così già si sposta anche di 10 Hz, sì, kilo Hz, dunque quello, no, non c'è da meravigliarsi, e dunque va bene anche per fare l'11 alfa e così via, eccetera eccetera. E anche perché questo qua è nuovo, è l'ultimo che ho comprato, nuovo nuovo, capito? Mi sembrava strano che avesse problemi. Questo qui c'ha più canali, capito? È già nato così dalla fabbrica, non c'ha solo i 40 canali, ne ha 120. Sì, e beh certo, ma lo so, poi il superstar, lo sappiamo che è un ottimo barattino, lo sappiamo, non, ma io non avevo dubbi, te l'ho subito detto, guarda che così, e ne sono più che certo che hai sistemato facendo quelle manovre lì, confermi? Scappa, sì, però ho fatto uno scatto, ci sono delle cifre, delle lettere strane, oltre PA c'è scritto VA, eccetera, eccetera, ho girato quel tasto lì e poi ho messo il clarifier a posto e è andato di lusso, l'ho messo sul 10 e ha trasmesso bene. Franco, volevo chiederti, quell'amica di Lucia li vende quei separati? Glielo posso chiedere, mi sa di sì comunque, se vuoi glielo chiedo, non c'è problema. Ma cosa c'ha? Levati a mano? Mappa di positivo, sì sì. Va bene, no. Fammi sapere, fra, che c'è una gabbia vuota, me li voglio mettere. Vabbè, glielo dico e ti faccio sapere, non c'è problema. Cosa vuoi, vasca in fine? Eia, sì. Cava cava, non ci sono problemi. Cava cava, fammi sapere. Avanti, giù. Ok, già. La passione continua, oh Gianni, del coso, degli uccellini, va bene così, e anche dell'acquario, eccetera. No, sono passioni belle, la verità. Io, a me piacerebbe lo stesso, ma non voglio prendermi impegni del genere, non me la sento, non me la sento proprio. Dai. Ho messo bubeccio e dunque tutte le forze mie stanno cominciando a calare, per cui vado tranquillo così fin quando ce la faccio. Non posso fare altrimenti. Va bene, avanti, fra. Dai, l'importante è arrivarci, poi o vecchio o non vecchio, l'importante è stare bene fisicamente e tutto. Sì, grazie a Dio già sto andando bene, anche a riguardo del problema che ho, che sembra che se l'abbia risolto, però la terapia la devo sempre continuare, speriamo fino alla fine, quando avrò completato tutta l'altra fila della terapia, che proprio sparisca definitivamente, e non ci sia più quel problema che pensare che possa ritornare, che può ritornare, può sempre, però è che lo sa, siamo nelle mani di Dio, avanti Gianni. Pensa positivo, vedrai che si risolverà tutto al meglio, va. Cosa ti sto dicendo Giulio? Non c'ho più i piccoli, io adesso c'ho due pappagalli grandi che parlano anche. Ah, belli, belli. Ce l'aveva un mio amico che abitava esattamente vicino, ti ricordi dove abitava Giulio Padre Pio? Abitava lì in quella palazzina e aveva anche lui, però ne aveva uno lì, di pappagallo, due, uno solo. Ma sai quanto parlava questo pappagallo? Una cosa incredibile, cioè da rimanere incantato, c'era da rimanere. Purtroppo anche lui se n'è andato adesso, voglio dire, quell'uomo se n'è andato, che poi tra l'altro era arabo, non era italiano. Sì, di padre sardo, eccetera, però era nato in Arabia, era nato, ma un'ultima persona veramente, che tra l'altro ha sempre vissuto qua, da piccolino l'avevano riportato qui in Sardegna, i genitori, e dunque ha vissuto sempre. Era anche più grande di media età, mi è dispiaciuto molto perché era veramente un signore uomo, veramente in gamba, molto molto educato. Avanti fra. E Franco li ha visti lì, e invece sono giovani, stanno cominciando a parlare, dicono ciao, vieni, queste cose qua, poi si mette a cantare la canzone della famiglia Adams, fischiano. Ah, ho capito, ma come fai di chiamare tu per parlare, oppure parlano così in maniera naturale loro quando sentono le persone? Allora, la canzone della famiglia Adams l'ho inculcata io un po', la fischiavo e loro adesso l'hanno imparata. Per le altre cose è tutto spontaneo. Quando gli dicevo Romeo, vieni, adesso gli dice Romeo, vieni. Ho capito, si apprendono a seconda di quello che sentono. È bello, bello, vabbè, comunque, va bene. È come grandezza, come di animale, è molto grande, oppure quello che avevo col mio amico Buonanima era grandissimo, tu immaginati, era quasi un coso, un povero, di quanto era grosso, grande, però era un pappagallo che aveva tantissimi anni. Allora, quelli sono gli ara e vivono anche 100 anni giù, ci seppelliscono a noi quelli lì, se non si ammalano vivono anche 100 anni, no, io ho quelli mini, però coloratissimi, i miei Franco li ha visti, i miei sono molto colorati, si chiamano Lori Arcobaleno, vai e guardali su internet, si chiamano Lori Arcobaleno. Ma non credo che sono biglietti, mi ha fatto vedere girare rosso. Giulio, mi senti? Sì, ti sento, come no? Ecco questo, ti sento, abbastanza bene, vai. Sono obbedienti quegli uccelli di Gianni, perché per minacciarli ti ha fatto vedere il girare rosso, capito? No, non è così, no, Bru. Tranquillo. No, dopo riguardo al computer, Gianni, così, per curiosità, per vedere come sono quel tipo di pappagalli lì. E allora, Bru, il zio sì, Santiago Nova mi sta arrivando, ultimo segnale al momento, avanti ancora Bruno. Ciao a tutti comunque. No, per quanto sono dentro il garage, sono 3 piani sottoterra, sotto il livello della strada. Adesso faccio parecchio la macchina, perché adesso esco a farmi un giretto, adesso vado a salgo su verso l'una sole con le panzerie, così ho sentito meglio e ascolto un pochettino. Chiudo il garage e lo metto a movimento. Ma hai cambiato l'antenna, Bru, per caso? C'hai un'antenna con la molla? No, io l'antenna che avevo a casa non volta, perché a me l'entrata cominciano a lavorare sul tetto. Avevo una specie di boomerang di quelle che hanno comprato da 3 metri da Fusaro. Questa è una mini turbo che ho comprato da Fusaro ed è di quelle calamità. Te l'ho messo sulla capotola della macchina adesso. Uomani. Sì, sono belle quelle mini turbo, vanno bene. Ciao Claudio. Ciao, buonasera a tutti, sono Bruno Ciarutto. Bruno arriva molto molto basso qua, sono abituato a sentirlo molto più forte. Ciao Giulio, fare recita anche a Franco, ciao a te Gianni. Un saluto circolare a tutti, buon divertimento e buon questio. Vai Giulio. Ok, ciao Claudio, bene, ben ascoltato. Va benissimo così, sempre la grande tu, la radio sempre di quelli a più non posso, molto bella. Bene, bene, avanti Franco, poi Claudio. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, 5-9+20 qua da me. Anche tu, anche Giulio, arrivate tutti fortissimi, belli, forti e chiari. Dai, un saluto solo, sapete io oramai, la voglia, non c'è più a stare radio. Saluto anche a Bruno se mi ascolta, un abbraccio a tutti e buon divertimento. Vai Gianni. Ehi, allora, già ti riviene la voglia, non ti preoccupare, va chi vai da va. Già ti riviene, non ti preoccupare, che la voglia non manca mai, specialmente chi l'ha avuto tanti anni l'apparato. Io sono stato tutta l'estate che lo modulavo, però poi sono andato e l'ho riacceso. No, qua il problema è che è sempre acceso, è che non mi viene voglia di entrare, di fare questo, ho capito tutto qua. Mi va di salutarvi e basta, le radio sono sempre accese qua, tutte quelle che ho, sia V, U, HF, tutto acceso, però non entro, non agio più gamma. Ciao a tutti, un abbraccio, vai, Bruno, a te il mic se mi stai ascoltando, ciao ciao. Ok, sentiamo, sì, io ti sento forte, infatti adesso sono uscito dal garage, mi sono messo fuori, sono da Giovanni Pasqua in questo momento, adesso salgo alla zona alta, così mi sento meglio. No, adesso ti sento bene Bruno, prima ti sentivo basso, forse perché eri dentro il garage, vai. Adesso ti ascolto molto bene. Ciao, un abbraccio anche a te, a risentirci, vai Fra. Ciao Fra, dai, ce la riascoltare prossima, allora saluta in casa anche da parte mia. Ciao Bruno, buonasera, spero che mi ascolti. Tu eri forte, chiaro, tu hai una rete molto bella. io con la mia compagna. Ok, Giulio, se mi sente, adesso sto guardando un altro. Sì, è che sento, Bruno, non c'è problema. Ti sento. Anzi, adesso man mano che sali ti sentirò sempre meglio, perché non ci sono dubbi. Ma ti sento abbastanza bene anche adesso. Tra me e te non è che ci sia poi questo grande ostacolo per la radiofrequenza, per cui va bene così, non c'è problema. Avanti, Gianni. Eia, Bruno. Ogni tanto, adesso ero un po' io che non entravo, perché d'estate già lo sai, si va in giro, adesso comincia l'inverno, tutti si raffrappiscono in casa e si comincia di nuovo a fare attività. Per quello che io stavo entrando spesso, perché quando c'è già in zona devo scappare. Kappa, vabbè. Dai, io ogni tanto trovo il momento libero, dai, quando sono solo accendo la radio, dai, mi fa compagnia. Ma io adesso ho messo il trattore in gara, e un'antenna così, pulsista, tanto per ascoltare, sto facendo qualcosa, adesso questi giorni sto prendendo un motore di moto e ne faccio il tempo, e ascolto, prima ne ascoltavo la radio, dopo lo fare male, adesso un po' la sera, sento le chiacchiere, mi sta facendo anche un po' di cultura, perché io ho tutti gli anni fuori, è solo che questi ritorno canale 10 sono terribili, parlano di dati tecnici, che deve essere uno scienziato, ma comprendibile. Oh, ma è difficile, mi. Se almeno che mi c'è Giulio che parla di queste cose, ma già fanno sempre piacere, sono cose che si imparano, si piace sentirle, là. Adesso sono più o meno sotto casa sua. Forse mi sentirei un po' basso già. Vai, dimmi, se ho tipo il tuo caffettone. No, è perché ho cambiato, allora, se ho preso la mano, sono già le Pasqua. Sono tornato indietro, ho preso e sono preso... Ehi, allora riprendete che cambio radio, ve le sto facendo girare che erano ferme tutta l'estate e le faccio girare un po' adesso. Riprendo io, allora fate girare già, però state attenti a non farle girare troppo, sia che le prende il capogiro, non si sa mai. Va bene così, dai, no, non c'è problema. Sì, quasi 9:10 mi sei arrivato per un attimo, Bruno, quasi 9:10 per un attimo. Sì, naturalmente il movimento e l'ago oscilla, ma è normale, no? È normale veramente. Aspetta che voglio fare una chiamata per vedere se c'è ancora Gianfranco, se ha terminato in 2 metri. Gianfranco, ci sei ancora? Forse ha chiuso qua questa frequenza perché stava operando in 2 metri. Avanti, Franco è parito. Claudio, ci sei ancora? Vabbè, forse anche Claudio magari sarà in 2 metri anche lui. Bene, bene, riprendi Blu. Sì, ok. Qua bisogna fare un concorso. Ma non c'è per fare. Non passano i rotatori e per rientrare si chiudono. Stavo dicendo, io farò un concorso per far entrare gli aperomi a frequenza. In omaggio che di entrare in frequenza perché è un baracchino. I concorsi, ci vorrebbe un buchino di scuola, ci vorrebbe soprattutto quando siamo nelle rotatorie, così, vaccare dai, no, c'è poco di gente prepotente nelle rotatorie, e vabbè, per quello io già lascio passare a tutti, perché intanto lo sappiamo, no? Poi alla fin fine cosa fai lì a metterti a bisticciare con certe persone, certi scammanati della guida, no, lasciamoli andare così. Avanti l'amico che ti ha fatto la risatina. Ero Giulio, non mi hai riconosciuto. Ma la Sinara ha chiuso. Io non l'ho più sentito, per cui non cosa vuoi che ti dica, non l'ho più sentito. Io l'ho chiamato poc'anzi e non ha risposto, forse stava lavorando. Vediamo un po', Giuseppe ci sei? No, forse ha chiuso già, forse ha chiuso, perché non l'ho più sentito. L'ho chiamato un paio di volte poc'anzi, quando eravamo in collegamento con lui, ma non ha risposto, vuol dire che ha chiuso, che ne so. Vai. E adesso sarà pescando, perché devi stare sempre recuperando, quindi non ha tempo di prendere il mac in mano, devi stare sempre lanciando e recuperando. Appunto, io non è che me ne intendo di pesca, però... me ne intendo di mangiare molto spesso i calamari, questo già me ne intendo, anche oggi me ne intendevo molto, anche oggi a pranzo, stanotte non lo so, forse stanotte è un altro tipo di pesce, però andiamo bene Matessi, non c'è problema, interessante mangiare. Avanti Bruno. Allora, roba di mare, è tanta roba speciale. Oggi è arrivato un'altra da Reggiambo, io purtroppo ormai da tanti anni non ho più la barca, per cui prima la pesce abbiamo pescato bene. Adesso, comunque, pesce di Adriano. Oggi stavamo rientrando perché lo svolgevo mia moglie. Detto tutto, adesso rientriamo, è tardi. Lì la faga perché ha fatto una visita chirurgica, per cui un casino. Adesso abbiamo una cosa da fare. Ah, io ho un ristorante, stiamo visitando un ristorante di lusso. Oggi mangiamo un risotto, una pescatora che mi ha scrivato, ma non sai, ma mi avevano buscato un piatto di pizza, un chilo di roba via. E dove sei andato, Bru? Interessante, perché a me la roba di mare piace. Dove, in che ristorante sei andato? Lì vicino a Pesaria, dove c'è il supermercato, al piatto. Ho appena fatto il risultato a campo, non ricordo, ma sono esagerati in casa, io ho portato una porzione che si mangiava in tre, poi vabbè, roba di calamari a buoni, freschi, mi piaceva quella roba di lusso. Guarda, quando tu sei città mercato, anziché girare a destra per scendere verso la zona bassa, gira a sinistra, quella via che poi va alla torcia, va alla Toyota, via Blackstone. Sì, ma non si stava benissimo perché c'era poca gente, di lusso, ma ti sto dicendo, già ne crepato, abbiamo mangiato roba di mare, calamari, ma una cosa mai vista. Si mangia bene, io c'ero lunedì scorso io e ho mangiato la stessa roba, però abbiamo mangiato anche di più, dai. Abbiamo mangiato porcetto, roba di mare, eccetera, eccetera, poi dai, ci siamo grimbati. No, io, certo, quando vado in queste cose sento di mangiare roba di mare, io non sono molto per la casa. Tanto sempre un po', però lo sai cos'è? Io ero da prima della pandemia, ultimamente vabbè, lo troverò qui tutto, non stavamo pensando a quello, è passato quest'anno, abbiamo passato per carità, e sto terminando di aprire gli scatoloni che ho nei garage, sto terminando le ultime cose. Però ripeto, quando andiamo da qua, io frequento molto Alghero, perché vabbè, sono di origine alghenese, ho stato tutta la vita a mare, e conosco quei posti lì. Noi, tutte le volte che andiamo a Alghero, siamo tre settimane. Sempre roba di mare, non c'è storia. Ero grido io. Ma il coso di tuo padre non ce l'avete più? No, già è un giorno. Allora, la barca di papo era finita male, avevo passato un casino ad Alghero, era stata rubata, poi c'è stato un processo, un casino. Poi niente, io avevo comprato una roba pescata fino a pochi anni fa. Avevo una bellissima barca. Io purtroppo ho dovuto mollare perché ho problemi con la schiena. Avevo una barca abbastanza veloce, giusto, non molto grande, 2 metri, però ripeto, il mare a me, come mi hanno tolto il mare, devo sapere se ho lasciato la barca, se no non mi cade in piedi. E solo che non abbiamo tagliato le gambe, perché ha detto vado, sì, mi trovo gli amici, poi ti vai a fare un diretto con loro in barca, dietro, però non c'è niente da fare, no. Quando tu giri il quadro, metti in barca e passi con una roba bandoglia e stai tutto il giorno a trainare. Vabbè, a trainare già è bello, dai, prendi anche roba bella. Io avevo un amico che aveva una stessa, non so se la conosci, una pilotti da stessa, e c'aveva 2 motori da 80 cavalli. Andavamo verso Bosa, perché ce l'aveva lì al velo, andavamo verso Bosa a largo, prendevamo queste pizzole anche da 1,2 kg, 1,3 kg, una volta ne abbiamo preso 22 addirittura. Sì, già lo so, ma io, certo, posso dire, io conosco bene la pizzola di Alghero, perché io, vabbè, la scuola l'ho fatta con mio padre, tu lo sai, mio padre ha fatto pescatore tutta la vita, famiglia di pescatori, mio nonno, avevano le barche, tutti sono stati a mare, e per cui da bambino abbiamo navigato con lui, abbiamo imparato, però quando noi uscivamo in barca, anche con la mia barca, io la strumentazione non ne avevo, avevo imparato dai vecchi a mettere, che non so, alcuni riferimenti Calà, vedi, sapete che c'erano quelle scogli, io già ne avevo pagine, io andavo a fare le pagine, perché io ho navigato sempre così, capisco, ma con l'esperienza dei pescatori, no? Non ho mai avuto un'imbarcazione attrezzata per guardare lo sfondo, per guardare, ma è anche stata una cosa mia che non ho voluto io, capisco, questo è navigare a riferimenti che avevo. E ti dirò che ci siamo divertiti, vedi un amico di Valdo, con me che lo sai, Rino, mio fratello, che lui era molto appassionato, ma 3 anni fa purtroppo è morto, se no la barca l'avrei lasciata se c'era ancora lui. Io purtroppo ho dovuto mollare tutto, i motori, tutto, con grande dolore, ripeto, perché a me come è arrivato un mare, è come se mi è avvocato, mi ha tagliato le gambe. Io con Rino andavo al mare, Rino, la moglie, Graziella, Aldo, mia moglie, andavamo tutti insieme al mare. Lo so, io purtroppo, ripeto, forse perché ci siamo nati, abbiamo vissuto il Salvaghiero, ma io tuttora che non ho più la barca, tuttora, a parte gli anni scorsi, quando ho dovuto mollare la barca, abituato ad andare un giorno sì, un giorno no, a controllare gli ormeggi e tutto, io per anni ho continuato ad andare ad Alghero, ma tuttora la sera molte volte esco e la moglie mi dice, dove sei andato? Ma io a fare un giro su qui vicino, poi mi chiamano come zero, dove sei ad Alghero? Tutto io, e sabato e domenica ci risegniamo sempre ad Alghero, la domenica sera ci andiamo a mangiare qualcosa lì, ripeto, sono rimasto con la testa ad Alghero, io capito, non me ne vado a chiacchierare con i pescatori, magari c'è uno che sta uscendo che conosco, ma io mi butto in barca, io portami dove vuoi. o la odi, o se lo ami il mare, lo ami per sempre, una cosa che tu... Aspetta, ci siamo a Giulio, vediamo, perché Giulio vuole fare un po' montagnino, mi avanti giù. Il mare è una gran bella passione, non ci sono dubbi, è bello, anche a me il mare è sempre piaciuto, però ormai sono anni che non lo frequento più. Prima già ci andavo con la famiglia, mesi e mesi di campeggio, eccetera, eccetera, ma ormai no, ormai abbiamo una certa età, soprattutto mia moglie no, non ce la fa più a fare certe cose, per cui no, è meglio rimanere tranquilli. Per cui, per quanto riguarda il ristorante, io un po' prima della pandemia andavo molto spesso, sai dove Gianni? Sono da allora che non sono più andato in ristorante, perché sempre per questioni di contagio eccetera, no? E quello che c'è lì vicino a Bricomen, come si chiama? Detti, se ricordo bene, Spidi, una cosa del genere. È un locale che secondo me è molto, molto affidabile, perché tutte le volte che sono andato lì, sia per la pizza o per altri generi di pranzi, mi sono trovato sempre molto bene, molto frequentato, devo dire, è un locale tranquillo, Gianni. Sì, sono stato anche io, Spidi, sì, così, sì, e non mi ricordavo nemmeno il nome, adesso sono già 2 anni quasi senza andarci, un po' prima della pandemia ci sono andato con la famiglia e poi anche con i miei fratelli, eccetera, e invece allora adesso stiamo adottando un altro sistema, anziché andare al ristorante, tutti quanti in recluta via alle Bantamasse, in campagna da mia sorella, e facciamo festa lo stesso, tanto siamo una famiglia numerosa, si può immaginare, tra fratelli, cognate, nipoti, eccetera, quando siamo tutti insieme siamo una trentina, tanto per dire una, no? Abbiamo la casa a disposizione, la casa di mia sorella, poi tra l'altro c'è un salone grandissimo dove si fa l'arrosto, eccetera, e allora ci stiamo divertendo lo stesso così, anche senza andare in ristorante o già. E lì allo Spidi avevamo fatto una cena tutti i cibi, una bella greffetta di cibi l'avevamo fatta lì nemmeno 2 anni fa, e abbiamo fatto una cena lì. E si mangia bene, sì, anche lì. C'era anche musica, insomma, noi siamo andati di notte, c'era anche la musica, c'era musica dal vivo. A me piace molto, quando c'è la musica mi piace un bel, perché sono appassionato, mi piace cantare, eccetera. Quindi quando vedo musica sono proprio allegro. Bene, buonasera.